Eppure, Lione non è solo la storia di una cosa che non c'è. A Lione, ad esempio, c'è il bidet. Per essere precisi, c'è un bidet. Nella casa di un francese, che non è francese, ma calabrese. Questa però è un'altra storia. E poi c'è una guida turistica, ma non è una vera guida turistica, che con tanta pazienza porta in giro i due diplomatici attraverso strade che non si vedono, tunnel porticati che congiungono palazzi formando un unico sentiero invisibile, alternativo alle visibilissime vie della città. E ci sono anche due fiumi, uno magro e l'altro un po' più grasso, con sopra battelli che non sono veri battelli, ma bar dove andare a bere una birra la sera. A Lione, infine, c'è qualcosa che non ci dovrebbe essere, la trippa. Non solo c'è, ma è pure il piatto tipico della città e si manifesta in varie forme: trippa semplice, salsiccia di trippa, trippa in salmì e con il formaggio di capra, per un alito vincente. Thank you.